Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. È un dilemma che mi sono posto qualche mese fa e lo ripropongo oggi. In media ammonterebbe a circa 15.000 euro la cifra che gli italiani vanno a chiedere in prestito alle banche, sa che in questo momento sono così restie a dare denaro, per finanziare o pagarsi il matrimonio. Il matrimonio in sé non dovrebbe costare nulla, due persone si amano, decidono di sancire il loro desiderio di passare assieme la vita, o parte importante della vita, o comunque di stare assieme senza porsi problemi per il futuro, e quindi potrebbero sposarsi. Ma no, gli italiani ancora ci tengono a dare una forma cerimoniale al proprio matrimonio, a dare comunicazione a parenti e amici che si sposano, a non essere da meno di altre persone che hanno fatto il matrimonio, e quindi servono soldi. In un momento in cui viene lesinato il budget di una famiglia, di una persona, per consumi di tipo essenziale, in cui tagli si fanno anche rispetto alle cure dentistiche, ad esempio, gli italiani portano molto meno i figli dal dentista perché non hanno i soldi per pagarselo, però per il matrimonio lussuoso, per la scorpacciata, per la bevuta, per il lancio dei confetti, gli italiani vanno a chiedere soldi in banca. E questo mi sembra un dilemma di cui vorrei ancora una volta riproporvi non la soluzione, ma perlomeno l'elencazione dell'aspetto delittuoso. Già mia sorella non gli ha fatto fare il viaggio di nozze. Pure tua figlia vuoi vedere infelice. Dall'altra parte hanno pagato la casa, i mobili, il viaggio di nozze, il servizio fotografico, il filmino, le fedi e pure la torta nuziale. A te tocca il ricevimento, le bomboniere e l'abito da sposa. È chiaro? Questo è il preventivo di Michelini. È l'opzione più economica. Antipastino di mare, linguine dello chef. Sarebbero con gli scampi. Alternativa, pennette alla vodka. Per secondo, frittura di calamari e gamberi. Fresca, niente merda congelata, eh? Fresca. Insalatina, melanzane alla maniera del marinaio, caffè. Il tutto, 15 euro. È ancora molto caro. Non c'è un'opzione più economica. Un'opzione più economica sarebbe una spaghettata agli oli a casa tua, Saverio. Ma quanto vorresti spendere? Sono 200 invitati. Moltiplica per 15 euro. Sono 3.000 euro. Vini, bomboniere e abito da sposa esclusi. Io non ce la faccio. Questo naturalmente è un film, siamo nell'ambito della facezza, mica tanto, avete sentito. Mi ha sorpreso, parlando con degli amici, capire che una delle prime ragioni per cui gli italiani chiedono dei prestiti, si fanno finanziare, si indebitano, è quello per sposarsi o per fare vagamente delle cerimonie. Già il solito... la solita maestrina alla penna rossa mi ha mandato un sms: Nicoletti, ha posto male la questione. Se la scelta di un compagno si spera in quel momento per la vita, non è un motivo valido per indebitarsi, allora quali sono le cose per cui vale la pena fare i debiti? La televisione, le vacanze? Ma Mario, caro Mario, una persona che si ama e si pensa che possa essere, ci si illude o si immagina o si hanno buone ragioni per pensare che sia la compagno o il compagno della nostra vita, uno se lo può sposare anche senza indebitarsi. Ci sono alcuni dati, lo prendo dal portale prestiti.it, per cui in Italia la media di un matrimonio, diciamo una buona parte dei matrimoni, il costo supera 30.000 euro. Le spese più importanti sono il ricevimento, che in media può costare, in funzione della location, il numero di invitati, dai 5.000 ai 10.000 euro, l'abito della sposa, la base proprio dai 1.500 ai 7.000 euro. L'età media di richiede un prestito è 38 anni, perché si sposa sempre più tardi. Chi chiede un prestito personale per sposarsi si impegna per 5 anni e sono soprattutto gli uomini a chiedere questo tipo di prestito. Ora, io non voglio solamente mettere dei limiti al mantenimento delle tradizioni familiari, ma avendo avuto colloqui personali con amiche, con amici che hanno condizioni di normale difficoltà, che hanno giovani che stanno in coppia, che si amano, che vogliono stare assieme, e per necessità di esaudire una sorta di tradizione familiare, perché le madri non si spezzino il cuore dal dolore, perché la gente al paese non pensi che magari loro sono persone disonorate, ancora si sposano indebitandosi. In un momento in cui fare debiti, ahimè, se non per questioni indispensabili e fondamentali, sembra una follia, eppure è una delle prime ragioni per cui gli italiani chiedono soldi, appunto, per delle cerimonie, per qualcosa di superfluo, di inutile, di rappresentativo, che appartiene al passato, che appartiene a una sorta di cerimoniale che debba attestare il potere della famiglia o il fatto che il matrimonio, che poi è sempre più caduco, sempre più transeunte, sempre più difficilmente perdurabile nel tempo, possa essere una grande rappresentazione. Beh, risponde questa verità, è soltanto una voce colta nella rete, è una mia impressione. Avete voi testimonianze dirette o indirette di persone che stiano pagando debiti, siano indebitati e soffrono alla fine di ogni mese per pagare delle rate di un prestito solamente per sposarsi o per una prima comunione o per una cresima? Sembra roba di altri tempi, eppure pare che sia così. 800240024. Vuoi sposarti con una cerimonia all'altezza delle tue aspettative? Con noi puoi rendere davvero indimenticabili i momenti più belli della tua vita. Scegliere un prestito con vuol dire gestire al meglio le spese senza distogliere la tua attenzione dalle persone più importanti della tua vita. Potrai pianificare le spese nel tempo senza rinunciare a scegliere il meglio, affidandoti all'esperienza di leader nel settore finanziario da più di 20 anni. Il tuo matrimonio, ad esempio, potrà essere esattamente come avevi sognato, senza dover sostenere in un colpo solo tutte le spese. Prova subito a fare un preventivo online. Richiedi l'importo che ti occorre compilando il form in alto. Ti eroghiamo il prestito di cui hai bisogno entro solo 48 ore dall'approvazione della richiesta. Ora, tutte le persone impensierite per la secolarizzazione, per la caduta dei valori, per il fatto che non esista più l'idea della famiglia indissolubile, su questo settore dovrebbero intervenire, non vagamente fare pubblicità alla coppia indissolubile, ma dire: date certificazione certa dell'indissolubilità del vostro rapporto, non spendendo futilmente, in apparenza, in costruzione scenografica, quello che è un rapporto dovrebbe essere consolidato soltanto dalla volontà comune di stare assieme. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io telefonavo appunto perché mi faceva molto sorridere queste, facevano sorridere le notizie che lei dava, in quanto io mi sono sposato circa un anno e mezzo fa e ho speso praticamente nulla, anche perché ci siamo sposati in comune, in un giorno anche poco consueto, che è il martedì, se non erro si dice che non ci si sposa. Non si sposa, non si parte, non si dà inizio all'arte, né di Venere né di Marte. Esattamente. Ed eravamo molto pochi, eravamo circa 8 persone, se non erro. Io comunque ho molti amici, però non ho ritenuto caso di unire. Di costringerli a comprarsi un vestito, a farle un regalo, a perdere una giornata. Ad esempio, o costringere anche me a spendere soldi che non ho per festeggiare una cosa che poi si è festeggiata successivamente in un rifugio giusto con gli amici. Ma io ho sempre immaginato innanzitutto di non sposarmi, poi vabbè, è capitato piacevolmente anche, però l'idea di, soprattutto anche se avessi avuto i soldi, questo voglio dire, sono stato a molti matrimoni, mi sono anche divertito, ma non ho mai visto ho immaginato la coppia che si sposava che si divertisse col fotografo o a passare ai tavoli a salutare parenti e a stanti. Beh, se lei abitasse in una città come Roma, non so dove abita, vedrebbe a distanza di un mese dal matrimonio, tornati dal viaggio di nozze, gli sposi rivestirsi da cerimonia e andare in giro magari in condizioni più favorevoli per le varie ville, per i parchi di Roma, a fare le foto per l'album del fotografo. Ho sentito un ululato, cosa c'ha, un cane per casa? No, è sempre il bambino del mungitore di capre, sono sempre io. Ah, è sempre lei? Ah, beh, vedo che... Beh, la seguo facendo il papalingo. Ah, beh, lei è rientrata una seconda volta. Beh, allora mi spieghi, qualcuno le ha per caso detto: ma perché hai fatto una cosa del genere, hai fatto soffrire la mamma e le zie non sono potute intervenire, e così non è un matrimonio e non porterà bene, o cose del genere? Ma per fortuna no, forse conoscendomi sapevano che li avrei mandati al diavolo per solo queste affermazioni. Per cui no, tutto sommato no, forse qualche amico si può essere anche risentito, ma a questo punto è un problema ma suo. Non è mai un grande affare essere invitati a un matrimonio, perché in realtà ci si intrippa di robaccia, poi alla fine è quello, si passa una giornata faticosissima e si spendono un sacco di soldi, non si domanda la sera perché l'abbia fatto. Comunque il nostro mungitore di capre che ci segue con attenzione è l'esempio opposto, è diciamo l'eccezione che conferma la regola. La regola è esattamente un'altra e ce lo siamo fatti spiegare da un intermediatore di prestiti. Sono Gaetano Proto, amministratore di una società agente in attività finanziaria. Il nostro lavoro va dal piccolo finanziamento dei 1000 euro, che può avere qualsiasi finalità, fino a un massimo oggi reale di 30.000 euro. E le finalità sono le più disparate. Si va dal patrimonio, alle spese sanitarie, all'acquisto dei mobili, piuttosto dell'autovettura, fino ad arrivare a cose strane, stravaganti, come può essere il rifacimento del seno, le cure estetiche, piuttosto che la cosa più strana che ci è successa, è di finanziare i funerali. Gente che per il funerale del caro, per 3.000, 4.000, 5.000 euro, fa ricorso al prestito personale. Vedete, avevamo iniziato semplicemente con il matrimonio e vediamo che il prestito cerimoniale è un'attitudine che va anche ad altre fatali rappresentazioni dei momenti importanti dell'esistenza di un essere umano. Per cosa ci si indebita? Sì, perché ci piangiamo sempre addosso, sembra che improvvisamente abbiamo tutti il tozzo di pane che ci sfugge dalla bocca, poi ci rendiamo conto che in realtà un intermediatore per prestiti ci dice che i motivi per cui gli italiani chiedono soldi sono anche motivi importanti. Non voglio negare che esista un bisogno fondamentale di risorse per passaggi fondamentali della vita, ma per rifarsi il seno, per un funerale. Non posso capire, ma posso in parte comprendere il matrimonio, che è l'inizio di qualcosa. Ma per mettere sottoterra una persona, uno deve fare debiti. Cosa gliene importerà mai a quella salma che si disfarrà da quel giorno in poi? E quanto possano aver speso le persone che gli sopravvivono per il suo interramento? 800240024. Armando. Sì, buongiorno. Lei è una delle persone di cui stiamo parlando questa mattina. In pratica dispongo di una certa cifra per fare questo ricevimento. Qual è il suo budget? Il mio budget è di 5.000 euro. E che ci fa? Nemmeno il vestito della sposa? No, la sposa, diciamo, io parlo per i miei parenti, qua si usa che ognuno si paga i suoi. Ma allora il ricevimento è roba della sposa, non riguarda lei? No. Diciamo che se la mia sposa vuole invitare 140 persone, se le paga. Paga 140 persone, mentre se io ne voglio invitare 60, uguale. Avete stabilito questo accordo tra famiglie, ognuno paga i suoi. Sì, e quindi io mi sono stabilito un budget invitando le persone più essenziali, diciamo, i parenti più stretti, mentre mia madre per una... Con 5.000 euro quanti ne invita? Faccio conto, io sono circa 55 euro a persona. Beh, quindi... non è tanto, diciamo che ha trovato un buon prezzo. Sì, però per una persona come me che si sta costruendo una casa, si è fatto il mutuo per farsi una casa, diciamo che sono cose che vengono in secondo piano. E poi dovrà comprarsi un abito da nozze. Certo, sì, ma un abito mi verrà a costare intorno, esagerando, sui 1.000 euro. 1.000 euro, sì, 1.000 euro è una buona cifra. Diciamo... un minimo di logistica, logistica, non so, l'automobile per il trasporto della sposa, anche quella ci pensa la famiglia della sposa? No, quella ci penso io, ma... E quanto sarà? Mi accontento magari di farmi accompagnare da un mio amico che ha una bella macchina. Si va la macchina, va bene, l'amico... Poi, viaggio di nozze ci va o non ci va? Come, scusi? Viaggio di nozze, luna di miele. Sì, viaggio di nozze si farà magari una lista di nozze, lì... verrà pagato degli invitati. Spera che glielo paghino gli invitati, questa è una speranza, sì. La sposa quanto spenderà invece? Come, scusi? La sposa quanto spenderà, la famiglia della sposa più o meno? La sposa stessa cosa, sarà intorno ai 7-8.000 euro. Però il vestito costa di più della sposa. Ma le dirò, la mia fidanzata ha già acquistato il vestito e l'ha pagato 900 euro. Vestito, scarpe, acconciatura, sì, tutto. Fiori, addobbo della chiesa. a dopo della chiesa. Mazzetta al prete, ce ne stanno di cose, voglia, mica si. Sì, ce n'è tante. Diciamo, no, fra tutti e due ve la caverete con 15.000 euro. Sì, sicuramente, senza ombra di dubbio. Ecco, ma questi 15.000 euro, se lei li avesse in tasca adesso, come li spenderebbe? Dato per scontato che si sposa lo stesso, va in chiesa o va in comune dove vuole, si sposa gratis praticamente. Non se li potrebbe spendere meglio? Ma infatti, io questi 15.000 euro li metterei volentieri sulla mia casa, quella che sto costruendo. E allora perché non lo fa? Lo faccio per un'usanza. L'usanza, ecco, è questa la parola. La parola mi sono sentito dire da un'amica poco tempo fa, non posso, è la tradizione, è l'usanza. Di fronte a questa parola si irrigidiscono tutti, sembra che improvvisamente si possa spalancare una fessura da cui esce lava bollente nel quale si precipita chi non sta alla regola e all'usanza. 800240024, vale la pena per un'usanza? Sicuramente il periodo che va da aprile a giugno-luglio è un periodo molto importante per la concessione di credito, per tutte le cerimonie che ci sono, quindi la principale è il matrimonio, ma in realtà si chiedono finanziamenti anche per prime comunioni, per battesimi, per cresime, per tutto ciò che riguarda le cerimonie legate alla famiglia. Quello che capita sempre più di frequente è la richiesta della giovane coppia che si deve sposare, che chiedono in media come importo, siamo intorno ai 15.000 euro, per potersi sposare e poi andare a pagare un affitto, perché ovviamente non hanno case di proprietà, e creare il proprio nucleo familiare. Sto sempre guardando qualche dato preso da prestiti.it. Pare che a richiedere il finanziamento per il matrimonio ci sono soprattutto gli uomini, ma invece i genitori molte volte in alcune province sono loro a indebitarsi per far sposare i figli, come accade ad esempio a Parma, Barletta, Adria, Trani, Campobasso, Caltanissetta, naturalmente nelle regioni meridionali dove la tradizione, l'usanza è più forte, più difficile a demolire, è superiore la cifra che viene investita. 19.000 euro in Calabria, 18.000 euro in Molise, 17.000 in Sicilia, in Campania. Queste sono più o meno le cifre che vengono chieste in prestito per potersi sposare. Diciamo che l'importo nella stragrande maggioranza comprende la villa, il catering e tutti i servizi accessori. La richiesta spesso e volentieri nasce dopo aver visto o la villa o il catering, che sono gli importi più rilevanti da quello che poi vediamo sui preventivi che ci vengono a consegnare. Quindi quella, la molla che li spinge a chiedere un finanziamento, è l'impatto o col catering o con la villa. Di solito queste richieste ci arrivano senza grosse garanzie da parte dei richiedenti, infatti spesso si richiede l'intervento di uno dei genitori della coppia, per poter avere da parte nostra ovviamente delle garanzie che il debito venga risarcito nel tempo previsto e con le scadenze previste. Quindi avete capito, Gaetano, l'intermediatore prestiti che ci sta raccontando la storia, ci dice che è abbastanza complicato. Oggi è sempre più difficile che le banche diano prestiti. Lui che fa da intermediatore, cioè mette in contatto la banca con il cliente che ha bisogno di soldi e si preoccupa di fornire le garanzie, molte volte anche per avere il prestito per fare il catering, per dar da mangiare a 50-60 satanati che arrivano già satolli, nessuno di noi muore di fame, per dargli da mangiare i tortellini con la besciamella, per dargli da mangiare l'anatra caramellata e cose del genere, uno si indebita. I genitori pure devono firmare a garanzia con le loro pensioni e con le loro case perché i figli possano sposarsi secondo la tradizione. Ma non basta sposarsi, non è sufficiente sposarsi, non è sufficiente fare l'atto, perché in un momento in cui tutto sembra più difficile, in cui tutti ci guardiamo nelle tasche, in cui tutti cerchiamo di lesinare la forza della tradizione, fa sì fosse una bella tradizione orrenda, una tradizione piena di livori, piena di odi, piena di luoghi comuni, standard, tutti uguali questi matrimoni, fatti tutti in serie, con le spose tutte uguali, tutte orribili, tutte orrendamente vestite, con gli sposi burinissimi, con gli invitati schifosi, con le macchine, le limousine, le carrozze con i cavalli, tutte cose che vengono attinte dal kitsch più estremo. Beh, tutto questo vale la pena di indebitarsi. 800240024. Diana. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lì volevo soltanto dire, io non sono italiana, vengo dalla Moldavia. Ascoltando la vostra trasmissione adesso in macchina, ho pensato che devo dire la mia. Da noi le usanze, al di là di come sono qui in Italia, da noi sono ancora più stupide, perché guardando anche la situazione che hanno la gente lì, miserabile economicamente parlando, si indebitano soltanto per far vedere ai suoi amici, parenti, a tutti quanti: ma guardate quanto siamo noi forti, ma che matrimoni abbiamo fatto. Ho un'amica che addirittura ha fatto 2 anni due matrimoni alle sue figlie, a 2 figlie, e si è indebitato con 15.000 euro in banca soltanto per fare questi matrimoni qua. Lei trova giustamente che sia una stupidaggine estrema. È una stupidaggine estrema. Adesso per 6 anni è legata pure a dare questi soldi indietro alla banca con dei interessi molto salati. Ma guarda che da noi lo fanno in tanti questi cose qua, proprio usanza, tradizione, al di là di quella che ti puoi permettere. Uno, se si può permettere, se ha dei soldi, se diciamo così, al di là di tutto, si può permettere, lo fa. Ma se uno non ha, economicamente parlando, in modo di soldi, perché lo fa? Ma infatti, Diana, non siamo contro l'esibizione del benessere. Se uno ha i soldi, se li può anche fumare dentro la pipa, ci si può fare un lettino e dormirci sopra, può buttarli dalla finestra, può farci quello che vuole, sono i suoi. Ma se uno i soldi non ce l'ha, perché deve preoccuparsi e creare preoccupazione appunto, generale per questa cosa. Appunto, ma la mentalità che dire ma come mai, ma io, guarda che tutti quanti hanno fatto, ma ce la faccio anche io, ma lo devo fare, ma anche se muoio lo devo fare. Questa mentalità forse porta, ma tante volte questa porta a fare dei sbagli grossi nella vita, quando tu vuoi stupire qualcuno o fare così come fanno tutti. Devi fare come puoi fare. Forse in quel momento lì vivremo meglio e più tranquillamente, ma al di là di matrimoni, da noi, nel nostro paese, c'è un'altra usanza quando uno muore. Ah, fa dei debiti anche per quando si muore, come ci ha detto appunto Gaetano. Adesso gli dico perché da noi quando uno muore, al di là di quella, gli deve dare a tutti quanti un regalino, e non lo so perché. Ah, quando uno muore bisogna fare dei regali agli invitati al funerale. Esatto, poi li devi dare da mangiare al morto, devi invitare tutti. Mangiare chi? Agli invitati. L'abbiamo portato, l'abbiamo seppellito, a lui ormai non mangia più, cioè. Non importa mica niente, e invece i parenti devono chiamare tutti quanti a dargli da mangiare. Poi passa 3 giorni, li devi invitare di nuovo a mangiare, poi passano 9 giorni, li devi chiamare di nuovo a mangiare. Non conviene morire, bisogna stare attenti. Non conviene assolutamente morire, e quindi queste tradizioni forse, non lo so, penso che questi più giovani devono anche cambiare qualcosa nella sua mentalità. Sì, bisogna imparare a sposarsi, a nascere, a morire senza dover essere di peso economico, perché poi alla fine il peso si ripartisce per tutta la società. Grazie Diana. Simone. Sì, buongiorno. Simone. Buongiorno. Sì, sì, la sto ascoltando. Volevo sottoporre, mi viene anche da ridere, volevo sottoporre 2 casi, uno un po' più personale, uno direi che mi coinvolge. Nulla, io praticamente ho un negozio in affitto dove svolge il suo lavoro questa persona, che ha dovuto contrarre un prestito anche abbastanza elevato perché aveva 2 figli, li ha sposati tutti e due, e si sta parlando di un prestito intorno ai 40.000 euro. La difficoltà qual è? Che con la situazione un po' economica che l'ha coinvolto, insomma, che si è ristretta, si trova in difficoltà a pagare l'affitto perché deve onorare al prestito che ha preso. Ma vede che io dicevo che è un problema sociale, perché chi si indebita non avendo soldi per un matrimonio, poi alla fine il suo indebitarsi pesa anche sugli altri. Lui non paga l'affitto, quindi sarà problema di chi gli affitta il negozio, è tutta una catena. L'altro caso è il mio direttamente, perché ora io non ho grossissimi problemi economici, ma insomma al tempo si sta parlando in lire, non è che mi sono dovuto sposare, quindi casa e tutte le cose varie. E il problema è stato, perché secondo me è la spesa più assurda che uno possa fare in quel momento, il problema è stato con i miei genitori e diciamo mia moglie e i genitori di mia moglie, che loro volevano fare l'evento, volevano fare gli amici, i parenti, tutto, e io mi sono un po' dovuto adeguare, perché quando vedi la faccia dei tuoi genitori scontenti perché te vorresti fare una cosa, diciamo, un pochino più tranquilla, non si riesce a resistere. Beh, io questa mattina, se potessi lasciare un messaggio: lasciate che facciano le facce scontente i genitori, lasciate che le zie piangano, lasciate che le nonne rimangano affrante, minaccino l'attacco cardiaco, ma fregatevene, tenetevi i vostri soldi, godeteveli, ma non li buttate via in inutili ricevimenti. Melog, la realtà condivisa. Il cliente che ricorre ai famosi 15.000 euro per un matrimonio, per una giornata che sicuramente non si scorderà mai, va a indebitarsi almeno per i 7 anni successivi. Spesso e volentieri ci chiedono di arrivare ai 120 mesi in maniera tale da avere una rata più sostenibile. Ovviamente più è sostenibile la rata, più è lunga la durata, più aumenta la quota parte degli interessi. Quindi per una giornata sicuramente importante contraggono dei debiti che mediamente vanno dai 7 anni, dai 7 ai 10 anni. Questa è la realtà di cui parliamo questa mattina. A parlare era Gaetano Proto, che è un intermediatore prestiti, che ci ha spiegato come per 7 anni le persone debbono pagare un debito contratto soltanto per passare una botta di vita, un giorno di grande matrimonio, un lusso ostentativo nei confronti di parenti e amici che poi non corrisponderà assolutamente alla loro qualità di vita per quei 7 anni. Mangeranno pane e cipolla per 7 anni, ma saranno fatti un grande matrimonio. Questo naturalmente va contro le esigenze e le aspettative professionali di chi vive naturalmente organizzando matrimoni. Simona Malcovati, buongiorno. Buongiorno a lei. Abbiamo messo un dito nella piaga, ma lei deve aiutarci comunque a risolvere, perlomeno a capire il come, il dove, il quando e quali sono le cifre. Simona Malcovati è autrice, insieme a Chiara Parrini, di SOS Matrimonio, manuale per spose, edizione Kowalski. Aveva già scritto Professione Wedding Planner, l'organizzazione del matrimonio, edizione Franco Angeli. Insomma, lei organizza matrimoni. È proprio vero che gli italiani si indebitano per poter fare la botta di vita del grande matrimonio? Dunque, diciamo che per quanto riguarda i nostri clienti una situazione così, diciamo, drastica non la possiamo ancora verificare. Avete clienti ricchi, abbastanza ricchi per poterselo permettere, che fanno il passo secondo la loro gamba. Sì, abbiamo una fascia media, sicuramente media, non si rinuncia appunto al grande sogno, piuttosto si fanno dei tagli del numero di invitati, si decide magari di non fare la bomboniera, si decide magari di festeggiare in un ristorante piuttosto che in una location più lussuosa. Però non si ricorre ancora, diciamo, al debito. Ecco, però le voglio fare una domanda, mi risponda sinceramente. Sì. Hai mai visto volti preoccupati? Persone che lei ormai avrà l'occhio clinico, capisce perfettamente che stanno facendo un passo molto grande rispetto al loro status sociale, al loro potere d'acquisto. Mai visto con tenerezza persone venire lì preoccupatissime proprio per i particolari, perché hanno alla lesina le loro risorse investite in quel matrimonio? Cioè, famiglie che si metteranno in difficoltà per anni per quel matrimonio che le organizza. Allora, diciamo che sì, quest'anno, anche l'anno passato, qualche volto preoccupato l'abbiamo visto. Diciamo che intervengono anche i genitori, diciamo che la famiglia cerca di aiutare magari la coppia di trentenni che si appresta a sposarsi, regalando magari l'abito, regalando magari un elemento appunto del matrimonio per aiutare la coppia che deve affrontare in effetti una spesa che parte dai 20.000 euro a salire. Quindi insomma sono 20.000 il minimo. Per fare un matrimonio decente il minimo sono 20.000 sì, euro. Sì, con, esatto. Meno, con meno non si fa nulla. No, con meno non si riesce, perché comunque ci sono davvero tante cose, c'è appunto il ristorante, ci sono gli abiti, c'è la musica. La spesa più grossa qual è? Qual è, diciamo, la grossa spesa? Quello che la pesa di più spesa nel budget è proprio il ristorante, diciamo, o che sia catering o che sia ristorante, questa è la spesa che incide maggiormente. Quanto viene a testa ad invitato, più o meno? Una media. Siamo sui 90 euro. 90. E la media degli invitati, per quello che lei sappia, quali sono? sta scendendo, diciamo che siamo stati sempre sui 100, al nord questo è un po' sempre stato il numero, ultimamente vedo scendere verso i 60-70 invitati, quindi anche su quello si fanno dei tagli, appunto si decide di fare solo amici e qualche parente, proprio per evitare di trovarsi 150 invitati e non riuscire a sostenere questa spesa, insomma. Poi cosa accade durante il matrimonio? Quali sono l'aspetto, diciamo, dello show? Perché poi ci sono le foto, c'è il film e poi c'è la musica, mi ha detto lei, intrattenimenti. Sì, diciamo che ormai il matrimonio è proprio un evento, quindi si cerca sempre di far sentire gli ospiti a proprio agio, arricchendo l'evento di musica, a volte di caricaturista, di un mago, di un intrattenimento per i bambini, si cerca davvero di fare sentire l'ospite a proprio agio e non si sta più a tavola molte ore, si cerca di fare qualcosa di più veloce, magari un primo, un secondo, un bel buffet di antipasto, anche in questo caso ovviamente il menù scende di prezzo. L'ultimo film di Matteo Garrone sul protagonista del reality show inizia proprio con uno di questi matrimoni in cui era invitato come ospite d'eccezione uno sfigato reduce dal Grande Fratello che girava nella grande città dei matrimoni, appunto giravano con la carrozzella con i paggetti settecenteschi di matrimonio in matrimonio a fare sempre la stessa battuta, applauso alla sposa più bella del mondo e cose del genere. C'è un casting di caratteristi da matrimonio a cui voi attingete? Non vi voglio prendere in giro, però mi interessa come dato diciamo antropologico. Teniamo conto che la sobrietà un po' vince sempre nel matrimonio, almeno diciamo da noi, i matrimoni che abbiamo curato noi non si sono mai viste cose molto appunto eclatanti. Beh, voi siete di classe, ma ci sarà qualcosa di più sbracato, immagino, no? Guarda, la cosa più spettacolare che abbiamo avuto ultimamente è stato un mangiafuoco che ha fatto questo spettacolo molto bello e quindi c'era questa ambientazione per cui ogni tavola aveva il nome appunto di un personaggio appunto del circo e c'era un po' questo tema, questo filo conduttore, però tutto fatto insomma con misura, però è stato molto molto bello. Ma anche una mangiatrice di spade ci sarebbe stata bene. Probabilmente sì. Fermiamoci un attimo, resti in ascolto, però sentiamo qualche ascoltatore, poi lei ci aiuterà con i segreti del suo mestiere. Loredana. Sì, buongiorno, dottore, buongiorno. Lei è una vittima, senta, vero? Io... È una vittima. Io sono, sì, una vittima, anche vittima mio fratello. E chi è il vostro, praticamente... il vostro carnefice, chi è stato? Abbassi la radio, abbassi la radio. È mia suocera. Certo. Praticamente io sono rimasta incinta e non volevo sposarmi, andare solo in chiesa così e non fare niente. Invece? Mia suocera stava seduta, ha iniziato a sbattere i piedi a terra, ha iniziato a piangere. Mamma mia, terribile, ricatto delle mamme è una delle cose più deleterie. Oh, tanta pace, no, i miei genitori no, mi stava bene qualsiasi cosa, anche perché avevo già comprato casa, avevo tutto da pagare, non volevo fare niente, assolutamente. E non è riuscita a imporre la sua volontà? No, io sono succube di mia suocera. Vabbè, lo dice così, il momento che lei lo ammette già è libera se vuole. Non credo, io guardi, siccome non ho mai avuto legami così stretti familiari né di e grazie a Dio non ho nemmeno una famiglia acquisita, com'è possibile avere la consapevolezza di essere succubi di una persona e non liberarsene emotivamente? No, perché ecco, avrei fatto soffrire mio marito. Una delle condizioni per stare bene assieme a una persona è che la sofferenza dell'altro non sia a prezzo della nostra felicità. Sono stata anche il 31 dicembre, il 1 gennaio a tenere a casa, ecco. Vabbè, lei è una vittima consapevole. Lo faccio solo per mio marito, ecco, per non farlo. So che gli fa piacere. Ma perché se ha scelto un marito così farlocco che impone alla moglie anche la madre, che è un peso insopportabile? Perché lo ama, le fa tenerezza. Non sa rispondere. Le fa tenerezza. Amo. Quando un uomo amo comincia tanto. A fare tenerezza, guardi, è sulla via della liberazione. Fra un po' le farà tanta tenerezza, ma troverà altri uomini che in realtà la faranno palpitare, quindi si libererà del marito e della suocera. Questo è il mio augurio. Melog. La realtà condivisa. Scegli con noi la location ideale per il ricevimento del tuo matrimonio. Ecco le nostre offerte. Il castello. per un matrimonio intriso di magia e di sogno. Mura e torri merlate, ponti levatoi, imponenti portoni, scale, ambienti che pullulano di storie e leggende, ravvivati dalle fiamme di grandi cammini in pietra, per un matrimonio da fiaba. Il loft. Per coppie anticonformiste, uno spazio insolito ricavato da vecchi edifici industriali, collocati nel centro della città, in un unico grande ambiente essenziale e minimalista, se non esistenzialista. La cascina rustica. Per gli amanti della campagna, per un matrimonio informale agreste, stile picnic, con la presenza di diversi barbecue per la cottura della carne alla brace, del pesce... Mi sta scrivendo un ascoltatore indignato. Ma voi reggereste agli sguardi di sprezzo dei concittadini per il resto della vita? No, non resistevo, infatti ho cambiato città. E poi, la necessità di vivere un sogno almeno una volta nella vita. Sono sogni quelli di cui stiamo mandando i patetici spot, anche per i vostri genitori. Ma perché il sogno dei genitori è diventare l'incubo dei figli. Io ripeto, il senso di questa trasmissione è un'istigazione alla ribellione. Tutti coloro che devono subire, madri che sbattono i piedi, padri che si rifiutano di parlare e di mangiare per mesi, solamente perché non accettano di fare il grande matrimonio dimostrativo a tutta la cittadinanza, la fratellanza, la sorellanza, gli amici degli amici, i colleghi di lavoro, che loro sono una grande famiglia, e si spendono quei soldi, ma se li bevono, ma se li giocano al casinò, ma ci fanno quelli che vogliono, ma non li spendono per quella che deve essere una tradizione intangibile della famiglia. Ci eravamo interrotti con Angelo, che era riuscito a fare il grande passo, era riuscito a liberarsi dal giogo della tradizione familiare. Ma come ha risolto, Angelo, il suo matrimonio a basso budget? Allora, ho risolto in questo modo. Mia moglie ha un fisico straordinario e quindi ha comprato un vestito molto semplice che sembrava una dea, almeno ai quindi era bella di natura, chi è bella di natura, bella non ha bisogno. Natura, e quindi con uno straccettino euro... comprato alla bancarella dei cinesi sembrava una dea. No, vabbè. Non proprio, però diciamo più o meno ha speso 1000 euro compreso di beh 1000 euro è nella media, scusi, anche la peggior racchia con 1000 euro sembra sì. Bella però, scusi. Però compreso di ogni cosa, compreso di acconciatura, sopra e sotto, tutto completo, scarpe, tutto completo. Io ho riciclato un vestito già usato, perché l'anno due anni prima ho fatto da testimone a una mia parente e quindi ho riciclato quel vestito indossato una sola volta. Per quanto riguarda pranzo e bomboniere, ci siamo rivolti al circolo parrocchiale Caritas. Ah, perché la Caritas fa i matrimoni per i poveracci? No, nella parrocchia in cui siamo noi, la Caritas finanzia i propri progetti organizzando feste e bomboniere per i matrimoni. Beh, avete tolto il minestrone di bocca ai poveri barboni, non no, vi vergognate? No. Hanno comprato e cucinato per noi cose locali toscane, che sono piaciute a tutti. Ma i soldi chi li metteva? I benefattori? I soldi li mettiamo noi, cioè abbiamo pagato noi. Ah, avete risparmiato diciamo nella cucina. Esatto, con il vantaggio che il guadagno sul nostro... Cioè sul i chierichetti tanto. Vi hanno servito a tavola? Ci sono dei volontari adulti che fanno... Vabbè, di solito questi lavano i piedi ai poveri, non che fanno i matrimoni. Però l'utile di questo, cioè il loro guadagno... va a finanziare i progetti Caritas. Ah, quindi è stata una cosa solidale. Benissimo. Perché la nostra formazione è cattolica, siamo entrambi capiscauti. Vi siete sfamati con le ostie, qualcosa del genere? No, c'era lasagna, c'era carne, c'era antipasto, c'era una bella torta, c'era ogni cosa. Ah, bello. Nella civiltà... Come siete riusciti a fare la festa, dare il senso della festa? Diciamo non sotto l'insegna dello spreco. Beh, questa mi sembra un'ottima iniziativa. Poi... E poi per quanto riguarda invece le bomboniere, cassetti, l'avete fatta le bomboniere almeno? Le bomboniere solidali, sempre dalla Caritas, l'intero ricavato delle bomboniere ha finanziato un progetto, che poi la bomboniera non era altro che un simbolo evangelico, cioè due rami di cannella con attaccati dei simboli evangelici. Cioè avete fatto due pezzetti di legno e ve la siete cavata, insomma. Insomma, sì. Però una crocettina fatta con due pezzetti di legno. Fatti per bene. Vabbè, però... Poi, per quanto riguarda i gazebo, li ho comprati perché volevano noleggiarmi i gazebo a cifre assurde, quindi ho comprato 5 gazebi. Ma all'IKEA costano poche decine di euro. Li abbiamo comprati all'ingrosso, li abbiamo montati insieme a degli amici qualche giorno prima, e dopo il ricevimento li abbiamo donati ad un'associazione locale, perché erano di fatto invendibili, nel senso... Vabbè, ci fanno le feste parrocchiane, il santo patrono. Le feste parrocchiali. Per quanto riguarda i fotografi, io sono un grafico professionista e fotografo. Ha fatto da solo? No, da solo no, però gli amici presenti si sono offerti, ecco, per farci qualche pollo. e nulla, e quindi è andata in questo modo. La lista nozze l'abbiamo messa sul viaggio di nozze, e quindi anche il viaggio di nozze ci è costato giusto le spese che abbiamo sostenuto lì per mangiare e bere. Dove siete andati? A Lourdes, questi posti qua? No, no, siamo stati in Argentina, in Patagonia. Ah, in Patagonia, perfetto. Ci vado anch'io sempre con la mia compagna a mangiare vegano e con i miei cagnolini, quindi è un bel posto tutto sommato. A mangiare vegano in Patagonia? Certo, con la mia compagna, con i miei cagnolini. Ma un'altra storia. È difficile non mangiare carne in Patagonia. Lo so, ma noi vegani facciamo questo. Vabbè, grazie Angelo, sto scherzando naturalmente. Antonio. Buongiorno, sì. Io volevo condividere la mia esperienza. Ho collaborato con un amico per organizzare questo matrimonio low cost 2.0 praticamente. L'idea era quella di non spendere i soldi, perché non sono potuti riuscire a togliersi dai genitori che lo volevano fare a tutti i costi, faraonico. E allora ha detto va bene così, lo vorrei dire a questo mio amico. Ma uno non può dire ai genitori tutti questi soldi, spendeteveli per il vostro funerale quando sarà il momento. Loro li hanno fatti fessi e contenti. Dica come, questa è una formula intelligente, come hanno fatto? Hanno organizzato questo matrimonio, intanto per dire la sposa ha preso il vestito della sposa in naftalina della mamma e già lì si è risolto una parte. Addirittura c'è un fantastico vestito vintage anni 50. Bellissimo, straordinario. Lo sposo quel giorno è una comparsa, per cui quello che si è messo neanche me lo ricordo, probabilmente il solito vestitino blu che mette per andare in tribunale. Perfetto. E poi sì, ha risolto, poi era inverno, quindi aveva un cappotto sopra, quindi neanche si vedevano il cappotto, le cose. No, può farselo anche l'unico prestare. L'unico problema era un po' le scarpe scalcagnate che c'erano, però quelle alla fine me le devo comprare, poi me le ritrovo, insomma, e quindi le uso sempre. Ma nelle bancarelle si trovano anche a 5 euro scarpette. Non so dove la si è andata a prendere, però la cosa veramente straordinaria, ad esempio, è che per i camerieri di questo ristorante è andato a una scuola di alberghiera, di professione alberghiera, e ha preso questi giovani al primo anno e quindi li ha pagati molto, molto. Sì, quelli vengono quasi gratis, per loro è tirocinio, quindi sì, sono tutti contenti. Ma ha fatto un figurone comunque, erano bravissimi, per cui giovanissimi, quindi molto dinamici, anche spiritosi. Il video, il tristissimo video del matrimonio, no? Quello proprio hollywoodiano, lo ha risolto facendo una sorta di confessionale dentro questa sorta di ristorante, che peraltro ha preso un catering, anche questo fatto con l'alberghiero. Uno andava lì, c'era una telecamera, grandissimo, il pulsante registrava il video. Per le fotografie, ha detto a tutti, fatele con i vostri telefoni. Con i cellulari. Simona Marcovati, se tutti facessero come il nostro ascoltatore, voi non avreste più ragione di esistere. Esatto. Diciamo che noi come consulenti serviamo soprattutto anche ad arricchire di particolari, a dare armonia a tutti gli elementi che compongono il matrimonio, a fare ai nostri sposi delle scelte mirate, quindi del fornitore giusto per ogni coppia. La limitazione del budget è una cosa che vuol dire ci capita di fare, che facciamo in un primo incontro in cui ci si mette a fare questo budget planning, si analizza il budget e si va a splittare questo budget nelle varie voci, quindi diciamo che parzialmente anche questo tipo di supporto comunque viene dato, insomma. Grazie Riccardo. Buongiorno Nicoletti. Io sto subendo un attacco violentissimo da parte degli ascoltatori, mi dico che non posso irridere queste tradizioni, però faccio quello che posso per dar fastidio alla gente. Riccardo, prego. Dicevo, dalle mie parti qui in Puglia il problema si pone al contrario, nel senso che l'invitato che fa il debito fa il prestito per poter andare a un matrimonio. Per quanto si spende per andare a fare l'invitato in Puglia? Ma più o meno c'è una specie di sottocifra. Mi faccia mica la cifra, che siamo in conclusione. Potrebbe essere tipo 4 persone con 500 euro, 600 euro. 500 euro una famiglia per essere invitato a un matrimonio in Puglia. Riflettete su quello che abbiamo detto. Grazie Rocchetti, grazie Intonti, a domani.